GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Crisi Rizzani Decker, spiragli per il gruppo bloccato dall'indebitamento, coinvolte alcune grandi opere, tra le quali l'ospedale triestino di Cattinara. Consorzio Ponte Rosso, occupazione in crescita nel consorzio, appunto 5% in più di addetti, nell'ultimo anno ora sono oltre 6.800. Migranti a Gradisca, fuori dall'accoglienza, accampati in un'area adiacente al CARA. Le conseguenze delle guerre sull'ambiente, solo il conflitto tra Russia e Ucraina è costato finora 100 miliardi di dollari, se ne parla Udine. Trieste al Via Olio Capitale, 18ª edizione, fino a domenica 230 espositori al centro congressi in Porto Vecchio. Pordenone al Rogo della Vece, capro espiatorio di un anno di guai, la cerimonia fra tradizione e riferimenti all'attualità. Sono le 12 e quasi 32 minuti, buona giornata ancora da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In apertura la crisi della Rizzani Decker, l'indebitamento ha costretto il gruppo friulano a interrompere alcune grandi opere come l'ospedale triestino di Cattinara, ma ora si apre uno spiraglio legato all'interessamento del colosso Webuild. Massimo Mionen, segretario regionale della FNL Will Edilizia Legno, qual è la reazione, qual è il commento rispetto alle parole del presidente del gruppo Webuild sull'interesse per Rizzani Decker? Se venisse confermato, sindacato, siamo sicuramente contenti, prima di tutto perché stiamo parlando di un'azienda importante, non di finanza per capirci, e soprattutto perché il nostro interesse è quello di salvare e dare continuità a un gruppo che ha una storia, un'importanza, delle maestranze, insomma, ed è giusto che questa storia non venga cancellata in qualche modo. Quali sono gli elementi più critici di questa vicenda? Purtroppo le procedure, che per il momento non sono andate a buon fine, hanno creato sicuramente una situazione di criticità. In questo momento i cantieri sono fermi e perciò i lavoratori sono sotto ammortizzatore sociale. È bene che insomma si chiarisca il quadro quanto prima e speriamo che si concretizzi questa proposta. Insomma. Si sa qualcosa sui numeri di questi ammortizzatori sociali? Allora, Trieste, per quanto riguarda l'appalto, quello dell'ospedale di Cattinara, le maestranze rimaste al lavoro erano pochissime, adesso anche lì siamo fermi. In Veneto ci sono circa un'ottantina che era d'accordo, quello che è chiamato il Capio, che riguarda praticamente l'appalto delle ferrovie, dell'aeroporto, l'aggancio sulla rete ferroviaria. Lì ci sono centinaia di persone, anche quelle, alcune stanno tenendo in sicurezza i cantieri, ma anche lì siamo un po' fermi. Stessa cosa in Sicilia, dove anche lì, che riguarda sempre un appalto delle ferrovie, ci sono un centinaio di persone, anche quelle sono sotto ammortizzatore sociale. Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cresce l'occupazione nelle aree produttive gestite o convenzionate con il consorzio Ponte Rosso Tagliamento. Al 31 dicembre 2025 gli addetti hanno raggiunto a quota 6.840, con un incremento che sfiora il 5% rispetto al 2024, pari a 311 occupati in più. La zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento si conferma il cuore produttivo dell'area, con 3.822 addetti, in crescita del 4%. Segnali positivi arrivano anche dalla zona industriale nord di Spilimbergo, che registra 588 addetti, oltre il 7% in più, e dalle altre aree produttive del territorio. Tra queste, la zona industriale Cosa, che segna la crescita più marcata a fronte del 10,55% in più, e le aree della Tabina e di Cordovado, che mantengono un andamento positivo con incrementi superiori al 5%. Nel complesso, mentre l'occupazione cresce, il numero delle aziende rimane sostanzialmente stabile, a segno di un rafforzamento delle capacità produttive e occupazionali delle imprese già presenti nel territorio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà martedì mattina a Trieste per partecipare alla conferenza per il trentennale dell'iniziativa centroeuropea in programma al centro congressi del Porto Vecchio. Si parlerà di cooperazione strategica e di connettività. Già confermata la presenza dei ministri degli esteri di Romania, Serbia, Ucraina, Moldavia, Slovenia, Bosnia, Erzegovina e Croazia. Tajani interverrà anche a un forum del corridoio India Medio Oriente Europa che si svolgerà nel pomeriggio. Intanto il Generali Convention Center Trieste archivia il 2025 con un utile netto di oltre 450.000 euro. La cifra rappresenta quasi il 10% del fatturato, raddoppiando il risultato del 2024 e triplicando gli obiettivi di budget fissati l'anno scorso dal Consiglio di Amministrazione. Negli ultimi 3 anni triplicato anche il fatturato, oggi pari a 4.800.000 euro. Nel 2025 il Convention Center ha ospitato 93 eventi unici con un aumento del 7% rispetto al 2024 e del 35% rispetto al 2023. Il tasso di occupazione delle sale ha raggiunto il 65%, la media nazionale sotto il 40%. La crisi dell'accoglienza si manifesta anche a 2 passi dal CARA e dal CPR di Gradisca, dove alcune decine di migranti si ritrovano a bivaccare in una zona demaniale del servizio. I silos del Porto Vecchio di Trieste sono quella più nota, ma non l'unica tra le aree abbandonate che in diversi punti della regione i migranti arrivati dalla rotta balcanica utilizzano come rifugi provvisori. Accade anche a Gradisca, nella parte in disuso dell'ex caserma Polonio, a fianco del CPR e del centro di accoglienza. A segnalarlo è l'UNHCR, che in una ricognizione nei giorni scorsi ha registrato la presenza di alcune decine di persone. Una situazione che va avanti da mesi, con i migranti accampati in strutture fatiscenti e pericolose, prive di impianti igienici. Il fenomeno, spiega il sindaco di Gradisca, Alessandro Pagotto, non è nuovo. Già in passato gli ingressi all'area erano stati recintati e installati avvisi di divieto d'accesso in varie lingue. La scelta di fermarsi lì, aggiunge Pagotto, si deve probabilmente proprio alla contiguità con CARA e CPR, che dà la possibilità ai migranti di scambiarsi beni, cibo e notizie in un'ottica comunitaria. La prefetta di Gorizia, Esther Fedullo, aggiunge che gli uffici sono al lavoro per verificare le presenze, in ogni caso in numero limitato, e programmare i trasferimenti dei migranti in centri d'accoglienza in regione o fuori. Una riunione in merito è prevista la prossima settimana. Della situazione è stata interessata anche l'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'area che si estende su circa 60.000 metri quadrati. A breve, dice il direttore regionale dell'agenzia, Alessio Casci, partiranno lavori di sfalcio e ripulitura dei punti critici dell'ex caserma e successivamente, previa verifica con la soprintendenza in merito alla sussistenza di eventuali vincoli, un'interlocuzione con il comune volta a mettere l'area sul mercato. Gradisca, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. 64.000 litri di gasolio sottratto al pagamento delle imposte sono stati sequestrati a Verona in un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo Scaligero e di Udine dopo l'ispezione di alcuni vagoni ferroviari adibiti al trasporto di sostanze chimiche diretti verso il sud Italia. 2, accompagnati da una documentazione che evidenziava genericamente il trasporto di olio lubrificante proveniente dall'est Europa, contenevano invece gasolio per autotrazione. Erano destinati a un non meglio precisato cliente bulgaro, ma dovevano essere consegnati in Italia. L'indagine ora vuole ricostruire l'intera filiera illecita e individuare quello che doveva essere il reale destinatario del carico illegale. La guerra in Ucraina è costata finora 100 miliardi di dollari, stiamo parlando dei danni ambientali, quelli che quasi mai vengono quantificati, e si pensi a quanti sono oggi i conflitti, non ultimo quello che si sta allargando nell'area medio orientale. Anche la ricostruzione ha un costo altissimo in termini di emissioni atmosferiche, se ne parla all'Università di Udine. In 4 anni di guerra in Ucraina sono state immesse in atmosfera oltre 311 milioni di tonnellate di gas serra, tante quante ne produce un paese industrializzato come la Francia in un anno. Solamente per l'inquinamento atmosferico l'Ucraina chiede alla Russia 56 miliardi di dollari. Se al calcolo aggiungessimo l'inquinamento terrestre e idrico dovuto al conflitto, questo numero raddoppierebbe. Se la guerra finisse oggi, la stima totale dei danni ambientali supererebbe decisamente i 100 miliardi di dollari. Lennart de Klerk, ospite dell'Università di Udine, è un esperto olandese di contabilizzazione delle emissioni climalteranti. I suoi studi sono stati presentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e hanno destato l'interesse di NATO ed eserciti, incluso quello italiano. Per prima cosa vogliamo che nei negoziati si inizino a tenere in considerazione anche le emissioni derivanti dai conflitti armati, che sia l'aggressore a pagarne il conto, ma anche che si cominci a pensare alla quantità di gas serra prodotti dal settore militare in un momento storico in cui anche l'Europa si sta riarmando. Il 37% delle emissioni del conflitto è direttamente connessa ad armi e munizioni, ma nel computo entrano anche incendi, le rotte più lunghe dovute alle deviazioni dei voli civili e i gas serra per la futura ricostruzione, l'80% emessi per produrre cemento ed acciaio. Nell'Ucraina, sotto le bombe, esistono già progetti di riciclo di macerie e utilizzo di materiali a basso impatto. Damiana Chinese del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura Università di Udine. Abbiamo visto che la contabilizzazione della CO2, quindi il fatto di fare questo tipo di valutazioni, è un'expertise che è molto richiesta non solo dall'industria ma in tantissimi campi, per esempio la valutazione di eventi culturali, eventi turistici. Quindi dobbiamo dare agli ingegneri che lavorano in questo settore ambientale anche un'apertura mentale completamente diversa. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.41, passiamo al meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 13 gradi, Gorizia e Pordenone 16, Udine 15 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 12, Tarvisio 11 gradi, Forni di Sopra 10, Sappada 6 gradi, in quota sul Monte Lussari 3 gradi, sul Monte Zoncolan 2, sulla costa Lignano 15 gradi e mezzo e a Grado 13 gradi. E per le previsioni del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Giuseppe Visalli. Sulla nostra regione nel corso della giornata odierna avremo una debole pausa anticiclonica prima dell'arrivo di un nuovo fronte atlantico nel corso del fine settimana che riporterà correnti umide da sud e instabilità atmosferica. Per le prossime ore ci attendiamo ancora cielo tra il poco nuvoloso e il variabile, con la possibilità nel corso del pomeriggio e sera di qualche debole pioggia, soprattutto sulle prealpi Giulie. Temperature massime miti fino a 18 gradi in pianura. Poi sabato peggioramento del tempo, con rovesci sparsi su tutta la regione nel corso già della mattina, proseguiranno fino al pomeriggio, poi in serata peggioramento più corposo sulle zone occidentali con rovesci e forse anche qualche locale temporale, piogge che saranno abbondanti, localmente intense sulle prealpi Carniche con quota neve intorno ai 1400-1600 metri. Potrà soffiare vento moderato da sud o sud-ovest sulla costa, soprattutto la costa lagunare. Temperature massime in lieve calo a causa della nuvolosità, temperature minime invece miti tra i 7 e i 9 gradi in pianura, 8-10 gradi sulla costa. Domenica, giornata ancora caratterizzata dal maltempo, soprattutto nella prima parte della giornata, con cielo in genere nuvoloso, ancora piogge localmente abbondanti o forse anche intense sempre sulle prealpi Carniche, con rovesci o forse anche locali temporali, quota neve sempre costante a 1400-1600 metri. Nel pomeriggio e sera ancora possibili rovesci sparsi o locali temporali, questa volta ad est, sul Carso, su Trieste e sull'Isontino. Le temperature saranno comprese tra i 6 e 8 gradi per i valori minimi sulla pianura, 8-10 gradi sulla costa, massime invece sempre costanti intorno ai 15 gradi in pianura, 13 gradi sulla costa. A Trieste si è aperta la 18ª edizione di Olio Capitale, il salone degli extravergini di qualità. Fino a domenica 230 i produttori negli stand del Centro Congressi al Porto Vecchio. Si alza il sipario sulla 18ª edizione di Olio Capitale al Porto Vecchio di Trieste, la rassegna che raccoglie le eccellenze italiane ed europee dell'olivicoltura. Tre giorni, 230 espositori provenienti da 14 regioni italiane e uno che arriva dalla Croazia. Stand pieni da questa mattina, tra loro anche buyer provenienti da 13 paesi di tutto il mondo alla scoperta dei nuovi prodotti oleari. La fiera andrà avanti fino a domenica ed è organizzata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia. Le attese per questa edizione le spiega il vicepresidente Massimiliano Ciarrocchi. Sono aumentati gli espositori, abbiamo una previsione di un sacco di pubblico che verrà e perché abbiamo concentrato questa edizione sui giovani, l'agricoltura, l'olivocultura, anche perché dobbiamo far sì che si tramandi questa tradizione. Trieste si apre al mondo dando l'opportunità di far incontrare produttori e acquirenti, ma sono tanti i momenti di approfondimento all'interno della fiera che puntano anche sull'importanza di una corretta alimentazione e sull'utilizzo di oli alimentari di qualità per uno stile di vita sano. La novità di quest'anno punta proprio sulla relazione tra consumo di olio extravergine e salute. Un accordo con la Fondazione Italiano Fegato, apriremo anche tutta una serie di attività sugli effetti curativi dell'olio in un protocollo con questa federazione. Trieste, Dario Tomassini, Friuli, Venezia Giulia. E ora parliamo del mondo del vino, dove da anni è in costante aumento la presenza femminile. Stiamo parlando di viticoltura, di enologia, ma anche di promozione e consumo. Donne e vino, un binomio vincente e un rapporto che è maturato nel tempo. A confermarlo anche la storia dell'associazione Le Donne del Vino, fondata per valorizzare la presenza femminile nella filiera vitivinicola nel 1988, quando quello del vino era un settore appannaggio dei soli uomini. Oggi le socie sono oltre 1200 in tutta Italia. La presidente della delegazione Friul Giuliana dell'associazione, Elena Roppa. A livello italiano, come dirigenti, quindi produttrici, siamo al 32%. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la nostra associazione è composta da circa 80 socie, la maggior parte chiaramente sono produttrici. Ma la presenza femminile è aumentata anche nei percorsi formativi che instradano verso carriere nell'enologia. Anche nei settori tecnici, cosa che 30 anni fa non era assolutamente così. Quindi siamo passati in 30 anni, per esempio, dalle iscritte ASO Enology, quindi la figura più importante, l'enologo, l'enologa, per quanto riguarda il nostro settore dal punto di vista tecnico, siamo passati dal 2% all'11% di iscritte all'associazione, quindi di enologhe. E c'è una crescita costante delle iscrizioni anche alle scuole enologiche, alle scuole agronomiche e soprattutto poi all'ambito, negli ambiti commerciali, marketing, comunicazione e di turismo del vino. E ormai anche il consumo di vino vede una prevalenza di donne, forgiandone col loro gusto il mercato. Siamo al 52% come consumatori femminili rispetto agli uomini in Italia. Negli Stati Uniti, per esempio, siamo già al 59%. Quindi è stata una rivoluzione silenziosa anche nei consumi. Consumiamo meno, e questo è un dato di fatto, siamo più attente alla qualità in molti casi e cerchiamo proprio la tipicità. Lorenzo Gherlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:47, la pagina della cultura va a Patrizia Valduga per la raccolta Lacrima e Rerum, edita da Einaudi, la sesta edizione del premio Umberto Saba Poesia. Il riconoscimento le sarà consegnato a Trieste il 21 marzo, giornata mondiale della poesia, negli spazi del Museo Letz in Piazza Ortis, in un evento aperto al pubblico. Valduga, veneta di Castelfranco, è una delle maggiori voci della poesia italiana. Ha pubblicato una decina di raccolte e ha tradotto grandi autori, da Shakespeare a John Donne, da Mallarmé a Pound. Nell'albo d'oro della manifestazione succede a Stefano Dal Bianco. Il premio Umberto Saba Poesia è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste ed è curato dalla Fondazione Pordenone Legge. Alcuni libri e temi culturali di cui si parla oggi: restituisce la ricca storia e la straordinaria attività del primo club alpinistico nato nell'Alto Adriatico, il libro Cronache della Sektion Küstenland 1873-1892, edito dall'Associazione 30 Ottobre CAI, che sarà presentato a Trieste al Circolo della Stampa in Corso Italia alle 17:30. Una serata dedicata agli appassionati di narrativa contemporanea a Butrio, in municipio, alle 20:30, lo scrittore Matteo Bussola presenterà il suo nuovo romanzo La luce degli incendi a dicembre e dialogherà sui processi creativi. Ricostruisce l'occupazione cosacca il libro Novo Cerca Sede Intorni, dedicato alla storia della Valle del Lago negli anni della Seconda Guerra Mondiale, che verrà presentato dall'autore Pieri Stefanuti a Trasaghis nella sala consigliare alle 20:30. 10 itinerari imperdibili vengono descritti nel volume Nel cuore dei boschi di Giulia Zanuttig, Luca Tassotto e Denia Cleri, che sarà presentato Udine, la società alpina friulana, in via Brigatarea alle 18:30. Primo incontro per la rassegna Terre Alte, storie profonde, persone, nature e memorie di montagna, che mette al centro la montagna come spazio di memoria e identità. Per l'occasione Raffaella Carnelutti presenterà il suo romanzo L'altra guerra, dedicato ai conflitti nascosti che hanno segnato il tessuto sociale del Friuli Venezia Giulia nella resistenza. A Gorizia, al Trugovski Dom di Corso Verdi alle 18. Si dice di me il docufilm sul lavoro teatrale di Marina Rippa con le donne del quartiere Forcella di Napoli. Sullo schermo la vicenda di un laboratorio femminile che diventa spazio di riscatto grazie allo strumento della condivisione. L'evento è incluso nel progetto Dimmi, le donne raccontano, a Udine al cinema Visionario alle 19:30. L'ingresso è libero. Al termine della proiezione dialogheranno con il pubblico la regista Isabella Mari e Marina Rippa. L'incontro Abitare il disordine proporrà un confronto condiviso sull'agire creativo che trasforma gli spazi. Relatrice Francesca Gentile, docente di progettazione culturale all'Università Cattolica di Milano. Appuntamento a Udine alla libreria Coop Friuli in via dei Rizzani alle 16:00. Fra tradizione e riferimenti alla strettissima attualità, ieri sera a Pordenone è andato in scena il Rogo della Veccia. Le fiamme risanatrici si sono portate via il male di un intero anno. Non me l'aspettavo! Un atto di clemenza! E ora vai se mai... Pino, Pinuccio! Anche tu, sindaco, basta! E basta questo fuoco, basta! Anche questa volta non sono bastate le suppliche e le invettive né l'arringa dell'avvocato difensore. Me vorrei appellare al buon cuore di questa corte per una riduzione della pena. A evitare la condanna più severa. Se un destin caravecce e tite son destinata, che te finissi il processo con una bella brusada. Avanti, avanti, fuoco al paion. Così in pochi minuti in piazza 20 settembre le fiamme si sono portate via per la 54esima volta il fantoccio firmato da Giorgio Altio e con esso tutto il male e le brutture dell'ultimo anno pordenonese. Al Rogo, nel tradizionale appuntamento di metà quaresima organizzato dalla Pro Pordenone, è andata una veccia in versione trumpista con i ciuffi giallini del presidente americano, pronta a esercitare le mire espansionistiche della provincia che esedrio a tornar su Portogruaro e a imporre dazi su Brovada e Musette. Dopo il corteo per le vie del centro, un processo che ha spaziato dai casi del municipio, come la polemica sulle mancate dimissioni della vice sindaca, alla mancanza di parcheggi in ospedale, passando dalla lite sui costi per le spillette dei consiglieri comunali ai problemi del commercio. Un lungo elenco di accuse a carico della veccia per mandare al Rogo tutto quello che non va. Al manco stasera, per quel po' che ne vansa, sparisci col fumo de ti, bruta megera il mal. Le brutture, il diol che se gera in grumà, in sto anno. E così, non c'è dubbio, continua la storia che la dura da anni, che dando le colpe a sta veccia malnata, Pordenone, parna sera, la desmente chi è il mal e la se senti rinata. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Appuntamento tradizionale della Quaresima, Udine, si svolgerà stasera la Via Crucis tra i viali dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, la presiderà l'arcivescovo Riccardo Lamba e l'animeranno i gruppi giovanili del vicariato urbano. La partenza alle 20:30 dal padiglione numero 8 in Via Colugna. La mostra Noi e Matisse allestisce opere a mosaico realizzate nell'Officina dell'Arte, centro regionale lavorativo per persone adulte con autismo a Pordenone. L'inaugurazione a Udine è la casa della confraternita del Castello alle 17:30. La mostra si potrà visitare fino al 15 giugno, il venerdì dalle 15 alle 18 e nel fine settimana fra le 10:30 e le 12:30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Fitta oggi l'agenda degli spettacoli, tra gli appuntamenti di spicco ricordiamo Tap Factory al Comunale di Monfalcone, tra percussioni, acrobazie e naturalmente Tip Tap. Per la musica il concerto del pianista turco Fazil Say alla Fazzole di Sacile, tanta musica anche in Nel Blu, Avere tra le braccia tanta felicità, con Mario Perrotta che racconta Domenico Modugno e apre a Polcenigo il suo tour nel circuito Earth. Marta Cuscuna è al Miela di Trieste con Sorry Boys, dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze, e ancora a Trieste in sala Bartoli Marco D'Agostin, premio Ubo, rivisiterà attraverso gli occhi di un giovane il trionfo olimpico della fondista Stefania Belmondo. A Trieste 13 scuole impegnate questa mattina nella fase regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze. Intelligenza, memoria, emozioni, stress, invecchiamento, sonno, questi alcuni dei temi sui quali era imperniata la sfida. Una sfida dedicata allo studio del cervello. Le Olimpiadi delle Neuroscienze hanno messo alla prova 37 studenti arrivati a Trieste da 13 scuole superiori della regione, con tre prove su temi come intelligenza, memoria, stress, malattie del sistema nervoso. Paola Lorenzon, docente di Scienze della Vita all'Università di Trieste. Le Olimpiadi delle Neuroscienze sono un'iniziativa ormai pluridecennale. Nascono per sensibilizzare o per avvicinare i giovani allo studio delle neuroscienze e tenendo conto del forte impatto delle malattie neurodegenerative a livello della società. In particolare Trieste offre un percorso internazionale in quanto offre una laurea magistrale internazionale in neuroscienze. Organizzate dall'università, dal comune e dall'immaginario scientifico, hanno permesso ai ragazzi di approfondire argomenti che spesso trovano poco spazio nei programmi scolastici e hanno aiutato molti anche a capire cosa fare da grandi. È una materia interessante perché scopri come funziona il cervello e inoltre capisci come si sviluppa fino dall'embrione, fino dal feto. sogno di diventare neurologo e magari, chi lo sa, anche partecipare a qualche laboratorio di ricerca per alcune malattie neurodegenerative. Sono in quinta, quindi anche pensando al mio futuro, durante tutti questi anni lo studio di neuroscienze ha proprio acuito la mia passione verso la medicina. Domande sui neurotrasmettitori, dunque, sulla trasmissione del dolore, sull'invecchiamento, in mezzo una lezione sul cervello nel complicato periodo dell'adolescenza. Il vincitore andrà alla selezione nazionale a Camerino, dove verrà individuato il rappresentante italiano che parteciperà alla competizione internazionale negli Stati Uniti. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa edizione è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Marco Ferrito e Paolo Cassano. Sono le 12:56, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.